fuga del gatto, siamo ritornati finalmente. Beh, finalmente sono ritornata io, ma sono ancora in solitaria e per di più non in regia. Sì, ma non per lockdown, perché ci eravamo lasciati alla fine del lockdown, come lo vogliamo chiamare, quella cosa brutta lì che non ne parliamo più, non la invochiamo. E poi d'estate il gatto scappa, fa la fuga, le gatte anche, e quindi insomma la fuga del gatto era andata in vacanza. E però ricomincia adesso, perché ricomincia l'autunno, ricomincia anche l'inverno a breve, e quindi ricomincia anche la fuga del gatto a tenervi compagnia. E partiremo lasciando un po', cioè finendo quel che avevamo lasciato sospeso, ovvero la lettura dell'Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli. Vi ricorderete, una lettura che ci ha tenuto compagnia, spero, per qualche settimana nei mesi primaverili, e che riprende adesso perché non era mica finita. Eravamo sul più bello, direi, a tre quarti del libro, e vi ho lasciato un po' in sospeso colpevolmente. Adesso recupero e continuiamo appunto il racconto da dove l'avevamo lasciato. Ma la fuga del gatto ha in piano per, cioè insomma, ha nei suoi piani, in programma per voi, molte altre avventure. Non soltanto di Vivaldi parleremo, non soltanto dell'Affare Vivaldi e ovviamente del libro, ma ricominceranno a breve, e anche con la mia amata Virgi che mi accompagnerà, ricominceranno le puntate, quelle un po' più canoniche, quelle un po' più a cui eravate forse abituate, ovvero la fuga del gatto classica con le sue varie declinazioni, la soap opera, dove vi racconteremo alcune opere entrando un po' nel dettaglio e raccontandovi le trame e la genesi e tutti gli aneddoti intorno a varie opere liriche. Ma anche le altre puntate un po' di carattere un po' più generico, magari dedicate a qualche strumento musicale in particolare, o a qualche autore, qualche compositore, oppure a un certo tipo di vocalità. Beh, insomma, ne abbiamo viste un bel po' di variazioni e di sfumature di quello che per la fuga del gatto era la musica classica antica, colta, come viene detta anche in alcuni ambiti. Beh, insomma, continueremo avanti così, e quindi ricominciamo la fuga del gatto super lanciatissime. E quindi, anche se adesso sono da sola, giuro che non ho gli amici immaginari, ma veramente potete spero a brevissimo riascoltare anche la seconda voce della fuga del gatto, che è pronta in pole position per ricominciare. Quindi ricominciamo allora, però ci eravamo detti, finendo, temperando i nostri obblighi e finendo la lettura dell'Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, e quindi riprendiamo esattamente dove ci eravamo lasciati, la puntata numero 8, quindi la parte numero 8 non corrispondono ovviamente ai capitoli, le ho divisi in maniera completamente bovina, a casaccio, e riprendiamo da lì. Torri e Gentili si misero in automobile di buon mattino. Guidava Gentili. La giornata era freddina ma splendida, e durante il viaggio i due erano così di buon umore che chiacchierarono divertiti di una valanga di argomenti futili, finché, presi dalla ridarella per un soffio, non fecero un simpatico fuoristrada alla curva di Reano. Gentili sferzò di colpo e si rimise in carreggiata all'ultimo istante prima di infilarsi dentro l'argine. Bianchi come la carta, stettero zitti per un po', mentre Torri si tastava visibilmente i coglioni nella tasca dei pantaloni. Ripresero a parlare dopo 5 minuti buoni e, guarda caso, cascarono sull'incidente automobilistico di Puccini, fatto che tutti conoscevano a menadito. È sempre rilassante parlare delle disgrazie altrui, e i due ritrovarono presto il buon umore. Arrivarono a destinazione verso le 11 e Curlo uscì fuori di casa ad accogliergli al cancello perché aveva sentito arrivare il rombo della macchina. si salutarono con grande entusiasmo, stringendosi la mano. Il marchese, vero signore d'altri tempi, non abbracciava mai. Mentre attraversavano il giardino, per entrare in casa, Torri chiese al suo bibliotecario di poter passare, dopo così tanti anni di frequentazione, a darsi del tu. Non si poteva andare avanti lavorando a tre con una coppia che si dà del tu e altre due coppie che si danno del voi. Curlo arrossì, si schermì, balbettò qualcosa di spiritoso e incomprensibile e poi acconsentì, ma soltanto come licenza per quel loro ritiro campestre e a patto che poi in biblioteca si tornasse al voi. Non era formalismo né tantomeno spocchia, ma solo pudore. Lavorava in quella biblioteca da quasi 30 anni, ma gli sarebbe stato inconcepibile dare del tu a un suo superiore. «Maria Pierina, guarda che abbiamo con noi!» esclamò Curlo appena rientrato in casa. La signora Curlo, nata Peyron, era la nipote del famoso abate Amedeo Peyron, filologo, orientalista, egittologo e storico, gloria della cultura torinese del secolo precedente. Libri, manoscritti, papiri e stemmi erano talmente familiari a quei quattro individui che subito la conversazione cascò sull'argomento. Ma prima di cominciare la nostra caccia al tesoro, voglio mostrarvi un caso curioso come mi è capitato proprio l'altra settimana. Venite, seguitemi, fece il marchese tutto eccitato e contento di poter avere un po' di pubblico a cui raccontare la sua impresa. Li condusse a una finestra del salotto e da lì indicò con tono cospiratore una chiesetta bianca aggrappata alla roccia che si vedeva appena di sbieco, lontana qualche chilometro. I due osservarono col naso al vetro, cercando di capire cosa ci fosse di particolare in quella chiesetta, e poi puntarono gli occhi su Curlo, ormai in preda alla curiosità. Ebbene, quella là è la chiesa di San Giacomo, dalle vestigia classiche, ma fondata su una cappella ben più antica. L'altro giorno, passando di là per una delle mie solite passeggiate, vi volli entrare, ma la trovai chiusa. Bussai allora all'uscio della canonica e dopo un bel po' d'attesa m'aprì un prete, tutto diffidente e maldisposto. Vinsi pian piano la sua ritrosia e gli chiesi chi avesse fondato quella chiesetta. Lui mi disse che non lo sapeva per certo, ma che doveva trattarsi del figlio di un Savoia. Quando mi vide storcere la bocca a quella risposta improbabile, mi prese per un braccio e mi condusse nel piccolo cimitero attiguo. Oh, allora vediamo un po' voi, che la sapete così lunga, se sapete dirmi che significa questo. E mi indicò un'iscrizione in legno scolpito che mi sono trascritto su questo foglio. Aspettate, ecco. Ecco, al tavolino, andò al tavolino, prese il foglio e lo mostrò ai due. CEDMNBRGTIUS più secondo PR1792. È un bell'enigma, esclamò Torri fingendo interesse. È quel che pensava anche quel prete, sfidandomi. Mi disse che mai nessuno era stato capace di decifrarlo e che nessuno vi sarebbe mai riuscito. Ebbene, mi sono incaponito, voi mi conoscete, anzi no, tu mi conosci, che imbarazzo a dire così, e dunque il giorno dopo mi sono buttato a capofitto sull'archivio parrocchiale. Non ci crederete, ma in una mezza giornata ho svelato l'arcano. Sentite, sentite qui, e corse a prendere un altro foglio sul tavolo mentre i due si guardavano sgomenti. Carolus Emmanuel de Maulder, natus Brabantis, regno gallico trappista, ius primus uius, per secie rector 1792. Ah, addirittura, esagerò Gentili per dargli soddisfazione. In pratica, continuò Curlo, si trattava del fondatore della nuova chiesa e il suo primo parroco, un padre trappista belga, venuto in quelle terre nel 1790. Ma la data del 1792, pensate un po', non si riferiva all'edificazione della chiesa, bensì del cimitero. Cosicché, Torri era certo che Curlo li avrebbe massacrati per un'altra mezz'ora con la storia della chiesetta e del padre trappista, sicché lo interruppe con una recita magistrale. Non ci posso credere, ma davvero, è una storia incredibile. Tu, Faustino, devi assolutamente scrivere un saggio su questa vicenda. Chi meglio di te? E qui fu a sua volta salvato dall'ingresso di Maria Pierina. Prima che vi dedichiate al lavoro, eccomi un buon caffè, così avrete la mente più svelta nelle vostre deduzioni, disse appoggiando il vassoio d'argento sul tavolino davanti ai tre uomini. Il caffè sapeva di trucioli bruciati, sì, ma conservati a lungo in un recipiente che aveva contenuto dell'acetilene. Torri, novello Giuda Iscariota, esclamò «Buono!» e lo lasciò quasi tutto nella tazzina, mentre con l'immaginazione cercava di tornare al caffè che gli preparava la sua buona Amelia. Bevuta quella purga e fatte le ultime cerimonie alla signora Maria Pierina, Torri e Gentili seguirono il marchese nel suo studio con un cerchio alla testa, già stanchi come se fossero le 7 del pomeriggio. La scrivania del conte era ingombra di libri antichi aperti, tavole genealogiche e rotoli di pergamena. Curlo stava per iniziare la sua enciclopedica esposizione della casata di Durazzo quando Torri lo bloccò in partenza. Faustino caro, tu sai che io e il maestro Gentili dobbiamo essere nuovamente a Torino verso le 16. Ti prego di essere celere, non vorrei viaggiare al buio. La bugia fece effetto e Curlo si affrettò alquanto contro la sua natura. Partiamo dal primo possessore dei nostri manoscritti. Questi era il magnifico conte Giacomo Durazzo, ambasciatore a Venezia nel 1764 per conto di S.M. Cesarea. Alla sua morte nel 1794 la collezione passò da Venezia a Genova e qui si trasmise attraverso molte divisioni ereditarie, essendo la famiglia Durazzo assai ramificata e complessa. Gentili e Torri incrociarono gli sguardi pieni d'ansia. Curlo continuava a parlare, indicando col dito i rami di un fittissimo albero genealogico colorato d'acquarello che stava disteso sul tavolo dal titolo Epilogo degli capi destipiti della famiglia Durazzo distinti con colori. Ma per essere più breve, partirò direttamente dagli ultimi rampolli che potrebbero essere stati destinatari della spartizione che ci interessa. Guardate qua. La principessa Matilde Giustiniani sposa in prime nozze nel 1912 Giacomo Filippo Durazzo, ultimo rappresentante del ramo primogenito, distinto dagli altri due col nome Pallavicino. Ecco però che la principessa, a seguito della morte del marito, entra in possesso di tutte le ricchezze del primo ramo Durazzo, sposando in seconde nozze il marchese Negrotto Cambiaso e divenendo così la principessa Matilde Giustiniani Durazzo Pallavicino Negrotto Cambiaso. Ma il marchese Negrotto Cambiaso muore a sua volta nel 1925, lasciandole così. Fermo, Faustino! Ruggì Torri già esausto. Avevano completamente perso l'orientamento subito dopo i primi due nomi e sarebbe stato inutile continuare. Capisco il tuo zelo e la tua grande erudizione diplomatica genealogica, arrotondò Torri, ma devi renderti conto che stai parlando a due profani di questioni dinastico nobiliari, quindi cerca di essere più terra terra. Perdonatemi, sarò più chiaro possibile, arrossì Curlo, appuntando la sua boccuccia O verso le carte. Dunque, in sostanza, dopo aver studiato le divisioni genealogiche, ho formulato 3 ipotesi per individuare l'altra metà dei manoscritti. La prima consiste nel cercare proprio presso la contessa Matilde Giustiniani di Grotto Cambiaso, tutt'oggi residente nell'abito palazzo di Genova. La seconda ipotesi consiste nel verificare presso il marchese Giuseppe Maria Durazzo, residente nel palazzo di Largo della Meridiana numero 2 a Genova, del fu marchese Flavio, fu Giuseppe Maria, fu Marcello, al quarto fu Torri incenerì Curlo con un'occhiata. Il marchese riprese a voce bassissima e ormai terrorizzato. La terza ipotesi consiste invece nel verificare se nei possedimenti dei marchesi da Passano, dato che Giovanni Angelo del fu Angelo Alberto da Passano sposò in seconde nozze il 12 luglio 1841 una Maddalena Durazzo fu Marcello fu, aveva ricominciato con i fu, e Torri lo avrebbe infilzato per farlo alla brace con l'acciugata, ma affettò cortesia. Benissimo, Faustino, adesso è tutto chiaro. Tu hai elaborato 3 ipotesi di ricerca e su queste dobbiamo far convergere i nostri sforzi. Se non ho capito male, per verificare le prime due si dovrà andare a Genova. Bene, credo che dovrei programmare presto una missione laggiù. Gentili guardò Torri con gratitudine. Non aveva nessuna voglia di avventurarsi in quei labirinti nobiliari e fu contento di non essere stato coinvolto. Curlo invece ci sguazzava in quegli ambienti. Tuttavia avvertì: non crediate che si tratti di cosa semplice. Non lo dico per neghittosità, figurarsi, ma perché conosco assai bene la difficoltà di penetrare in quelle antiche famiglie, tanto più quelle genovesi, assai chiuse e sospettose verso gli estranei. D'accordo, Faustino, ma viva Dio, tu sei un marchese, mica un questuante qualsiasi, e fra aristocratici. Non vi credi. Non ti credere, corresse al volo Curlo, perché noi non andremo a bussare alle loro porte per prenderci un tè o giocare a whist, ma per esaminare il loro patrimonio personale ed eventualmente chiedere di vendercelo. Prevedo non lievi difficoltà e qui il mio essere marchese conta davvero poco, credimi. Stettero ancora una mezz'ora a programmare quella puntata a Genova. Curlo disse che si sarebbe dovuto provvedere di lettere di presentazione influenti ed elencò una filza di nobili uomini suoi amici a cui le avrebbe richieste. Poi, una volta avute le lettere, si sarebbero domandati gli appuntamenti e vai a sapere quando. Mattore e Gentili erano impazienti, si erano lasciati risucchiare da quel gorgo di ansia che aveva accompagnato l'acquisizione della raccolta foie, fatta di continui timori che i manoscritti cadessero in mano altrui. Avrebbero voluto che la missione a Genova fosse fatta l'indomani. Curlo fu chiaro e realistico, ci sarebbero voluti diversi mesi. Lui comunque avrebbe iniziato subito a muoversi. Terminata la riunione di lavoro, ecco finalmente l'agognato momento di andare a tavola per godere il pranzo amorosamente preparato dalla signora Maria Pierina. Si sedettero attorno a una tavola ovale ben apparecchiata. Torri e Gentili, che si erano alzati assai per tempo, erano affamati come coyoti e salutarono con gioia l'arrivo delle pietanze. Ebbero un consomé lunghissimo al gusto di sale. Poi dei crostini guarniti di incerto materiale organico, che solo più tardi si scoprì essere fegato di pollo, uno squisito fricandò in cui i pezzi di manzo erano sostituiti da riuscite copie sagomate in mogano, e finalmente il delizioso bonnet alle nocciole, in cui le chiare d'ovo si erano rifiutate di soggiacere all'umiliante pratica della montatura, conferendo così al manufatto l'invitante aspetto di una poltiglia bavosa. Non c'era alcun dubbio. La signora Maria Pierina Peron, sposata a Curlo, era una finissima storica e filologa. Il fasullo Torri lodò ogni portata con degli "Evviva! Ullalà! Ma tu guarda che roba!" Per quanto fossero lodi a doppio taglio, Gentili non se la sentì d'essere così ipocrita e ripiegò sugli elogi muti. Bocca piena, occhi all'insù, rotazione della mano destra e pronuncia del sempre valido giudizio apodittico. Si rimisero in macchina alle 3, salutati dai fiestosi coniugi Curlo, e sparirono tra le colline allegramente accompagnati da pirosi gastrica, lentezza del transito biliare, cefalea a grappolo. Non giunga a stare in casa. Passarono mesi prima che le lettere di presentazione ottenute da Curlo sortissero il loro effetto. Poi, finalmente, agli inizi di dicembre, tutto si sbloccò e il marchese poté partire per la sua missione. Genova, domenica 11 dicembre 1927. Arrivo a Piazza Principe, ore 17:30. Scendo all'hotel d'Italie, in via Carlo Felice. Camera decorosissima e comoda, anche se un po' fredda. Domattina incontrerò, se Dio vuole, la principessa Matilde Giustiniani Durazzo, su cui spero faccia presa la lettera che mi ha scritto l'amico marchese Stanislaus Cati Grimaldi. A letto presto e incrociamo le dita. Genova, lunedì 12 dicembre 1927. Delusione amarissima. Mi faccio accompagnare in carrozza alle ore 9 presso il Palazzo Durazzo Pallavicini di Via Balbi numero 1. Vengo fatto passare negli uffici amministrativi. Invano esibisco la mia lettera al segretario. La principessa è ancora nella sua residenza estiva e non intende ricevermi. Resto esterrefatto da questa mancanza di tatto. La principessa mi manda comunque a dire che già altre persone avevano chiesto e cercato cose musicali nella sua biblioteca, ma non ne avevano mai trovate. Resto seccato. Il segretario se ne avvede e cerca villanamente di consolarmi, dicendomi che in ogni caso la principessa non mi farebbe mai entrare nella sua biblioteca. Gli domando il perché e mi risponde che ha subito un furto di libri. Indovina da parte di chi? Di alcuni preti che ella aveva accolto in biblioteca. Vado a colazione, ma ho lo stomaco chiuso. Domani altro duro cimento. Il marchese Giuseppe Maria Durazzo. Meglio non esprimere voti. Genova, martedì 13 dicembre 1927. I patrizi genovesi sono davvero ossi durissimi. Altro fallimento. forse mezzo fallimento, si vedrà. Arrivo attorno alle 12 al palazzo in largo della Meridiana numero 2. Vengo fatto accomodare in una saletta piuttosto disadorna. Dopo mezz'ora si degnano di accompagnarmi nello studio del marchese, che mi accoglie con durezza nonostante la mia lettera. È seccato e non vuole parlare delle cose sue. Attacco l'argomento della collezione Foà e qui il marchese va su tutte le furie, proferendo parole durissime verso i padri salesiani che hanno disatteso le ultime volontà di suo zio Marcello, il quale fidava ciecamente che si avrebbero religiosamente conservato il patrimonio della sua famiglia. Mi riferisce altresì che suo zio Marcello gli confidò personalmente quel desiderio poco prima di morire. Dice poi sapere per certo che anche il precedente rettore dei salesiani aveva cercato di vendere il lascito, quindi lui è in gran collera verso quei religiosi. Cerco di rabbonirlo e gli chiedo di poter vedere la biblioteca per capire se vi si trovi l'altra metà dei volumi. Mi oppone un secco rifiuto, adducendo che tutta è in disordine e che fino a che non sarà messa a posto non vuol farvi passare nessuno. Mi congeda, ma riesco a strappargli un altro colloquio per il giorno successivo. Torno in albergo esausto, domani di nuovo nella tana del lupo, ma senza grandi speranze. Genova, mercoledì 14 dicembre 1927, mattinata libera, che bello, a spasso pei carruggi. Torno dal durazzo, non senza timore, alle ore 15. Solita stucchevole anticamera, solita mezz'ora di attesa, ma qui capita la mia fortuna. Per ingannare l'attesa passeggio su e giù lungo un oscuro corridoio ammirando i quadri, quando s'apre una porta alle mie spalle e ne esce un servo con la scopa in mano. Lascia la porta aperta e la curiosità mi spinge a dare un'occhiata. È la biblioteca! Metto timidamente il capo dentro e scorgo nello scaffale di destra una fila di volumi di stessa dimensione e legatura dei nostri. Faccio appena in tempo a leggere su una costola Vivaldi, Concerti 6, che sento tornare il servo alle mie spalle, ma allontano affettando indifferenza. È fatta, i volumi sono quelli, i numeri pari della collezione Durazzo sono qui. Poco dopo il marchese mi riceve, questa volta in una sala splendidamente arredata. Lo trovo un po' più umano e calmo, anche se mi fredda dicendomi che senza lettera di presentazione del suo padre confessore non mi avrebbe neanche aperto la porta. Poi mi rivela che adesso gli ispiro fiducia e smette un po' del suo primitivo riserbo. Torno sull'argomento dei manoscritti musicali e lui mi dice di non sapere se ce ne siano e quanti nella sua disordinata biblioteca. Deve farla sistemare in vista della spartizione del patrimonio con sua sorella Maria, ma non vuole nessun clamore intorno alle sue cose, giornalisti, antiquari e altro come gli era successo con i manoscritti di suo zio. Ci congediamo con la promessa che quando avrà riordinato la biblioteca ci contatterà per la valutazione e la vendita dei manoscritti. È fatta. Telegrafo subito a Torri la gran scoperta, poi a pranzo alla trattoria parigina in piazza Ponticello per festeggiare. Ci vollero quasi 2 anni perché il marchese Durazzo realizzasse di possedere 167 volumi di manoscritti musicali e 145 di stampe musicali, fra cui si trovavano i 13 volumi mancanti di Antonio Vivaldi. Il marchese era molto pio ed eseguiva soltanto ciò che gli consigliava il suo padre confessore, il gesuita Antonio Oldrà. Bisognerà convenire che è un modo molto saggio di portarsi. Fu proprio il suo confessore a suggerirgli di vendere quelle carte inutili. Il marchese, zelante membro della Compagnia di Misericordia e altresì cameriere segreto di cappa e spada di Sua Santità Pio XII, decise di vendere. Piazza Meridiana 2, Genova. 3 gennaio 1930. Gentile Commendator Torri, in quanto alla nota musica, io sarei disposto a trattare, sempre che ci fosse il compratore disposto a farne poi omaggio alla biblioteca. Né al marchese né al suo confessore sfiorò alla mente l'ipotesi di donare direttamente i volumi alla biblioteca. Ma come? Emanuele aveva ottenuto 300.000 lire per una cosa che aveva ricevuto in regalo e lui avrebbe dovuto regalare allo Stato un pezzo del suo patrimonio? 100.000 lire, nulla di meno, era già un prezzo di grande favore. A Torino, l'euforia della scoperta se l'era già mangiata la lunga e stenante attesa che il marchese si decidesse. Quando Torri lesse a Gentili il biglietto di Durazzo, i due piombarono in un déjà vu. C'era da trovare ancora una volta il benefattore che si privasse di una grande somma per acquistare una collezione da donare allo Stato. Prima di sbattersi in giro alla ricerca di un altro santo come Foà, Torri e Gentili decisero, senza alcuna speranza, di chiedere al ministero, che nel frattempo aveva fascistamente cambiato nome, non più della pubblica istruzione, bensì dell'educazione nazionale. Il ministro espresse il suo più vivo compiacimento. Si rallegrò per la preziosa scoperta, promise di informare Sua Eminenza il capo del governo, il cavalier Benito Mussolini, dell'importante ritrovamento, ma chiarì che si doveva trattare di una cessione gratuita allo Stato. Arrangiatevi e tanti fervidissimi voti. Torri e Gentili non avevano scelta, bisognava cercare un nuovo mecenate privato. E perché non ritentare con Foà? Ma sì, certo, questa volta la somma era inferiore e con questo ulteriore sforzo l'intera biblioteca d'Urazzo si sarebbe potuta riunire sotto il nome del suo piccolo Mauro. Torri chiese a Gentili di aspettare qualche giorno prima di contattare Foà. Voleva avvisare il ministero e averne il placet. Perché perdere tempo? Gentili non era d'accordo. Nulla da fare, lo zelo burocratico di Torri prevalse. La risposta che arrivò da Roma li gelò. Non si giudica conveniente, per ovvie ragioni, che Vostra Signoria faccia dei tentativi presso il signor Roberto Foà, nel senso accennato nella nota cui si risponde. Evidentemente per il governo pecunia olet, se viene da un antifascista che da qualche tempo è nel mirino dell'ovra. Meglio non avere altri debiti di gratitudine nei suoi confronti nel caso si fosse necessario arrestarlo. Erano di nuovo in alto mare. Gentili e Torri si incontrarono ancora per trovare dei nomi, ma era chiaro che stavano spremendo un limone già spremuto. Qualche idea gli venne e fu di nuovo Gentili ad andare all'attacco. Ma sì, la radio! Ecco, ci aveva collaborato per alcune trasmissioni a carattere musicale. Loro i soldi e l'interesse nazionale lo avevano di sicuro. E poi c'era il dottor Marone, l'industriale della Cinzano che aveva conosciuto da poco e che lo stimava. Eiar. Ente italiano audizioni radiofoniche 17 febbraio 1930. Ci pregiamo confermarle che il comitato direttivo non ha creduto di addivenire all'acquisto degli autografi musicali di cui lei aveva tenuto parola, perché la cosa non rientra nel programma della EIR. Spiacente non poterle dare migliore risposta. Distinti saluti e ossequi. Il consigliere delegato Casa Cinzano, Torino, 28 febbraio 1930. Malgrado che io abbia esaminato la di lei gentile proposta col più vivo desiderio di far cosa gradita a lei ed in genere agli studiosi di musica antica, speciali mie contingenze me lo impediscono. Con l'espressione della mia più alta considerazione, Enrico Marone. Agli inizi di marzo non sapeva dove battere la testa. I manoscritti di Durazzo sembravano allontanarsi ogni giorno di più. Gentili cominciava ad essere stufo, avvilito, sfiduciato. Quella sera rincasò tardi perché all'uscita dell'università quella tarma del rettore lo bloccò con una noiosa grana burocratica. Appena fuori venne giù un diluvio che lo tenne fermo in un caffè per quasi un'ora. Rientrò in casa umiliccio e nervoso. Baciò distrattamente sua moglie Paola e si buttò in poltrona a rigirarsi fra le mani quelle lettere di diniego. Stava sbagliando qualcosa nel modo di chiedere? Foà era stato un miracolo che non sarebbe più ripetuto? Cercò di ripercorrere con la mente quel giorno in cui gli venne l'idea di chiedere a Foà. Com'era arrivato a quell'uomo? Ah, ecco, era stato il motivo in più, la forza della memoria, quella che gli altri uomini facoltosi non avevano. Appunto, era proprio la dimostrazione che si trattava di un caso unico e che sarebbe stato impossibile ripetere il miracolo. Buttò le lettere sul tavolino e allungò la mano nella cesta dei giornali per distrarsi un po'. Ne tirò fuori uno dal mucchio e lo sfogliò nervosamente, scorreva i titoli e gli facevano un effetto strano, come se li conoscesse già. Arrivò alle ultime pagine e realizzò che stava sfogliando un giornale vecchio di quasi un mese. Lo sbatté con rabbia sul tavolino, ma l'occhio gli cadde su un nome stampato in grassetto sulla lista dei necrologi. Senza riflettere, guidato dal solo istinto, l'occhio continuò a leggere. 14 anni or sono, in questo triste giorno, saliva al cielo il bambino Renzo Giordano, di anni 12, strappato prematuramente all'affetto dei genitori Filippo e Maria, che ancora ne piangono l'irreparabile perdita. Filippo Giordano, l'industriale tessile. Ma sì, il proprietario dell'anificio di Corso Novara, che stupido non averci pensato prima. Non solo lo conosceva bene, non solo era un uomo ricco, ma era l'uomo con il motivo in più, il nuovo Foà. Per di più, lui, Giordano, sapeva come avvicinarlo, dato che era imparentato con degli ebrei di sua conoscenza. Si mise a scrivere immediatamente la lettera. 10 giorni dopo, di buon mattino, era sotto la Biblioteca Nazionale, prima dell'orario di apertura, ad aspettare che arrivasse Torri. Fischiettava l'ouverture della scala di seta di Rossini e aveva in tasca una lettera. Torino, 30 aprile 1930. All'illustrissimo signor professor commendator Luigi Torri, Torino. Illustre professore, ho l'onore di confermarle quanto già verbalmente intesi col professor Alberto Gentili in merito al materiale musicale inedito di proprietà della famiglia Durazzo. Le accludo pertanto un assegno di 100.000 sullo spettabile credito italiano affinché la raccolta in parola sia assicurata e destinata alla Biblioteca Nazionale di Torino, di cui lei è così degno soprintendente, e sia dedicata alla memoria del mio diletto e adorato figlio Renzo, di cui le accompagno fotografia. La ringrazio, illustre professore, di avermi dato modo di assicurare alla mia cara Torino una preziosa raccolta fra i più nobili prodotti dell'ingegno italiano, quali sono i manoscritti inediti del Vivaldi, e di avermi dato il mezzo di ricordare in modo degno e imperituro l'adorato mio figlio Renzo. Devotissimo Giordano. Sembrava una storia finta, creata da un romanziere un po' macabro e poco fantasioso. Due bambini morti che riportano al mondo ciascuno la metà dell'archivio scomparso di Vivaldi. Eppure era andata così. Stava di fatto che adesso a Torino si trovavano centinaia di capolavori inediti etichettati sotto il nome dell'Angioletto Mauro e dell'Angioletto Renzo. L'euforia e la gioia per quella seconda acquisizione mandarono Torri e Gentili al settimo cielo. Articoli di giornale da tutto il mondo celebravano l'eccezionale scoperta musicale. Le lettere di congratulazioni fioccavano a decine ogni giorno, ma una in particolare li fece balzare dalla seggiola. Veniva da Roma e non ammetteva indugi. Presto, Amelia, dove sono le ghette? Ma se me l'hai chiesto già 3 volte, te le ho messe nella valigetta verde assieme al rasoio e l'acqua di colonia. Sì, ma ti avevo detto di metterle qua, insieme al frac. Ecco, lo sapevo. Mancano i gemelli, Amelia. Quando doveva partire Luigi Torri era insopportabile. Entrava in agitazione già 2 giorni avanti e faceva e sfaceva le valigie perché c'era sempre qualcosa che non andava, fino a 5 minuti prima di uscire di casa. L'appuntamento era alle 8:15 sul terzo binario della stazione di Porta Nuova. Impossibile sbagliarsi, però non si sa mai. Meglio trovarsi lì un'oretta prima per farsi salire l'ansia e intirizzito dal freddo. Gentili e Filippo Giordano arrivarono invece soltanto con un quarto d'ora d'anticipo sulla partenza del treno per Roma. Quegli incoscienti. Avevano tutti e 3 un biglietto di prima classe. E passarono l'inizio del viaggio a chiacchierare animatamente di tutto, della musica. Delle giacche di lana, il matrimonio di Umberto II e biscotti alla nocciola. Poi la conversazione si inceppò sul vitel tonnè, da lì sulla bagnacauda e poi sul brasato. Capirono il perché guardando l'orologio. Si stava avvicinando l'ora di pranzo, avevano una fame da orsi. Ma intanto il treno stava entrando a Genova Piazza Principe e lì si piantò per mezz'ora per il cambio di trazione. I 3 scesero sul marciapiede a fumarsi un sigaro, con Torri che guardava in continuazione verso la testa del treno e diceva: «Dentro, ora si riparte!» «Ah, ah no!» Nel tratto dopo Genova si sedettero finalmente nella lussuosa carrozza ristorante gestita dalla Compagnie Internationale des Wagons Lits. Fu un continuo tintinnio di stoviglie e bicchieri, minestre che debordavano ad ogni scossone, camerieri traballanti che un passaggio sì e uno no urtavano qualcuno rischiando di rovesciargli il vassoio sulla giacca. Dopo il pasto, la conversazione andò spingendosi in un abbiocco generale fatto di teste reclinate e mandibole ciondoloni col filo di bava dal labbro a manica. Furono svegliati a Pisa San Rossore, dove il treno cambiava nuovamente trazione e si riforniva d'acqua. Uscirono per la seconda volta sul marciapiede, con le bocche impastate e un po' di mal di testa. Torri aveva il riporto che durante il pisolino si era scollato, mettendo a nudo lo specchio della pelata. Prese a parlare animatamente, senza accorgersi che l'ardito ciuffo gli penzolava sulla spalla, e solo dopo essersi accalorato sulla spinosa questione dell'accordo commerciale fra Italia e Unione Sovietica, si rese conto del disastro e rimediò riposizionandosi in fretta il copricapo. Nel lungo tratto tirrenico i tre cominciarono a far proiezioni sull'incontro che li aspettava quella sera, immaginando ogni particolare del suo possibile svolgimento. Ci fu un altro pisolino collettivo e poi, a circa un'ora da Roma, i tre si ripresero dal torpore e iniziarono i preparativi, andando a turno nella toilette per cambiarsi l'abito fra scossoni e gomitate negli stipiti. Quando il treno entrò nella capitale era buio da un bel po'. Le aspettava una vettura mandata apposta dal capo di gabinetto del ministero. Traversarono Roma silenziosa e scura fino a Palazzo Venezia. Lì fecero anticamera per circa un'ora. Torri, inzeppato nel frac inamidato, camminava su e giù, affilandosi nervosamente la barbetta, bisbigliando in continuazione una litania di parole da cui ogni tanto spuntava eterno, vibranti, anime, italico. Gentile e Giordano si erano messi a ripassare i dettagli dell'etichetta nel terrore di sbagliare. Entra prima lei? No, no, no, assolutamente no, prima lei. Ma chi dà per primo la mano? Torri, Torri. Poi lei, maestro. Ah, no, no. Dopo Torri tocca a lei, che è grande ufficiale, e via così. Finalmente, all'una di notte, freschi come stracchini, si spalancò la porta e un segretario le ammise alla presenza di Sua Eccellenza il capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, duce del fascismo, il cavalier Benito Mussolini. Saluto al duce! Gridò il segretario scattando sull'attenti. Eia, eia, la la! Gridarono in coro i tre gallinacci alzando di scatto il braccio in alto. Gentili si sentì un cretino, mentre Torri e Giordano sembravano convinti. Percorsero il lungo tratto che conduceva alla scrivania e lì furono salutati con cordialità. Mi hanno riferito degli importanti cimeli musicali da voi rinvenuti in un casolare di Varazze. Ma bene, bene, narratemi meglio, esordì il duce, stringendo a tutti la mano e facendo cenno di sedersi sulle poltrone. Prese la parola il commendator professor Torri, che non sapeva come correggere lo strafalcione di Varazze e sudava copiosamente incassato nel frac di ebano. Vedete, eccellenza, ecco, sì, in effetti provengono dalla Liguria, appunto. Si tratta di una preziosissima collezione che a voler ben vedere si trovava in Genova e che solo grazie alla generosità del grande ufficiale Giordano, il grande ufficiale chinò il capo con affettata modestia, è stato possibile assicurare allo Stato. Poi tirò il fiato e attaccò con voce stentorea. Quando, fra il Natale e l'Epifania dell'ottavo anno di nostra salvazione fascista, la stella d'Italia nel suo magico luce d'eterno lume d'eterno splendore guidava la nostra umile soprintendenza bibliografica alla scoperta di tanto tesoro, subito quei canti e suoni di antiche anime italiche disperse nell'infinito palpitarono in noi e fecero risuonare i nostri cuori sulle stesse vibrazioni di quelle musiche sublimi che. Era l'infernale Pippone che Torri s'era scritto e imparato a memoria da 15 giorni. Gentili lo guardava sgomento. Giordano ne era tutto rapito, ma il duce interruppe subito. Ma bene, mi compiaccio. E giù pacche sulle spalle di Torri, che sorrideva imbarazzato e un po' seccato per non aver potuto terminare la sua sublime allocuzione. E ditemi, sono belle queste musiche? Chiese il duce. Qui rispose Gentili, Eccellenza, si tratta di inestimabili capolavori musicali dei nostri più grandi compositori del passato, segnatamente del Vivaldi, del quale si era rivelata un'immensa mole di composizioni finora ignote, e poi dello Stradella. Ma bene, dunque ci sarà anche pane per il mio violino, scherzò il simpatico duce, e tutti risero divertiti. Giordano colse al volo l'occasione. A questo proposito, Eccellenza, mi vorrete concedere l'onore di farvi omaggio di un oggetto che apparteneva al Marchese Durazzo, assieme a tutte le musiche da me rilevate e che nessuno meglio di Vostra Eccellenza potrà apprezzare. E gli porse una custodia di violino che fino ad allora era passata inosservata. Mussolini sgranò gli occhi. Non si aspettava quell'uscita. armeggiò un po' con le serrature e poi cavò dalla custodia un violino assai più bello di quella ciabatta che possedeva. Lo ammirò sorridente e se lo girò per le mani contento come un bimbo. Era il violino di Vivaldi, eccellenza, opera di Girolamo II Amati, figlio di Niccolò, ultimo esponente della celebre famiglia di liutai, dettagliò Giordano. È con vivissimo compiacimento che io lo dono a voi, eccellenza, affinché fra le vostre mani di artefice possente di nuove e feconde armonie sociali, esso possa tornare a cantare le glorie dell'italico suolo. E sulle due ultime parole di quel testo che aveva scritto e riscritto 100 volte, la voce gli si impennò stentorea. E poi chissà chi gli aveva detto che quel violino era davvero di Vivaldi, forse era solo una deduzione per averlo trovato presso Durazzi assieme alle musiche manoscritte. Vivaldi o no, Mussolini lo imbracciò tutto euforico e, tesi i crini dell'arco, attaccò a suonarci una romanza assai melensa, ma in compenso stonata. La interruppe sulla dominante dopo poche battute e scattò l'applauso frenetico dei 3 spettatori fra «Evviva! Bravissimo! Che artista!» e il duce che dondolava il testone a dire ma no!» e intanto sorrideva sornione. Andarono avanti a parlare di musica un altro po'. Gentili gli donò la prima edizione Ricordi da lui curata di alcune musiche del Fondo Foà. Ci fu un brindisi e infine i tre, accompagnati dalla porta, furono accompagnati alla porta, ubriachi di gloria. Appena rimasto solo, Mussolini si riaffacciò alla porta, fece il solito cenno al segretario che sparì nel corridoio. Dopo 2 minuti la maniglia si aprì di nuovo. Lui si fece trovare al centro della stanza che suonava il violino, a torso nudo. Lei scivolò lungo la parete, guardandolo con gli occhioni languidi e cazzottati di bistrò, mentre si passava ammiccante il dito indice sul labbro inferiore laccato di carminio. Avanzò lentamente, senza mai staccare la schiena dal muro, mentre il bacino serpeggiava lascivo al ritmo di quella melodia sensuale. «Senti che armonia, Giulietta!» fece lui, senza smettere di suonare. «Senti la voce del violino di Vivaldi!» E giù, arcate intense e appassionate, mentre lei cominciava a spogliarsi, eccitata da tanta poesia. Cadde pian piano una spallina, poi lentissimamente l'altra, mentre i colpi d'arco aumentavano vertiginosamente di frequenza. «Il culo! Fammi vedere il culo!» ansimò ancora, mentre straziava le ultime note. Dopodiché il violino di Vivaldi fu buttato di furia sul tavolo. Thank you.